Radio Onda Rossa, questo è l'appuntamento con il cinema giovedì 4 febbraio del 2016, 87.9 la modulazione di frequenza, ci potete ascoltare qui oppure in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page ci ascolta la diretta. Visionari, dicevo, ogni giovedì dalle 14 alle 15, la scaletta la trovate sia sulla pagina del sito internet La Voce Trasmissioni Visionari, sia sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Allora, Dario Bonazzelli per I Wonder Pictures, per parlarci dell'uscita in web del documentario The Look of Silence, stavolta è giusto. Ci siamo. Dario, dici un po' di questo lavoro. Intanto, per chi ci ascolta, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un documentario. Un documentario che vinse il premio della giuria, il gran premio della giuria a Venezia, non nella passata edizione, ma in quella precedente, quindi 2014. È la seconda opera di un regista e autore incredibile, Joshua Oppenheimer, che fece seguire questo secondo film a un suo primo film che si lega a stretto nodo con The Look of Silence, ovvero The Act of Killing. Sì. The Act of Killing fu candidato a Oscar in quell'anno, cioè nell'anno precedente. The Look of Silence è il candidato Oscar di questa edizione. Stiamo parlando sempre di film documentari. Sono due opere imperdibili, necessarie non solo ai cinefili. Parliamo di un autore che Herzog ha ribattezzato come uno degli autori principali di questa nuova ondata di documentaristi, insomma, dagli anni 2000 al 2010. L'occasione ghiotta per noi, quella di riproporre ovviamente un film di questa caratura per una nuova uscita, che è quella appunto nel digitale, contestualmente alla selezione per gli Oscar. Ovviamente tutto il mio staff di Wonder Pictures stiamo girando già da un mese con le dita incrociate, speriamo che la cosa ci porti fortuna. Dario, il film è uscito in sala la scorsa settimana, se non sbaglio, ha avuto un'uscita comunque? Ha avuto certamente un'uscita. The Look of Silence, dopo aver vinto il premio appunto a Venezia 2014, il gran premio della giuria, è uscito immediatamente nelle sale, ha avuto una bella programmazione, una ventina di sale in tutta Italia e nei principali centri, per cui ha avuto un'uscita proprio per gli addetti ai lavori teatrical consistente, di buon successo, sull'onda dell'entusiasmo della vittoria di questo premio. Non sono mancate proiezioni in quest'ultimo in tutto l'anno a seguire, fino ad arrivare ad oggi appunto, in cui verrà il film è stato ripreso per qualche evento in sale sparse in tutta Italia e finalmente lanciato poi anche per la fruizione più vasta attraverso le piattaforme digitali. Sì. Devo dire che l'uscita veneziana è stato un colpo di coda, insomma, che abbiamo deciso di comune accordo con il distributore internazionale e Joshua Oppenheimer stesso, in quanto abbiamo anticipato i tempi di tutti i paesi del mondo. È stata una prima mondiale. Abbiamo anticipato anche i tempi rispetto agli Stati Uniti, quindi il film è uscito per la prima volta in Italia rispetto al resto del mondo, dove il film è uscito nei cinema la scorsa estate. Dunque ha avuto un bel percorso che ci porta fino ad ora, ad oggi, a tifare per Joshua Oppenheimer nuovamente, dopo aver mancato purtroppo il premio Oscar nella scorsa edizione degli Oscar con il film The Act of Killing, andando appunto ad alcune date che mi auguro abbiate la possibilità di segnarvi. Già l'8 di febbraio su sito internet My Movies, sulla piattaforma Il Nuovo Cinema Repubblica, sarà possibile partecipare a una visione collettiva, altrimenti sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali iTunes, Google Play e Sony a partire da attorno al 20 di febbraio. Senti, com'è strutturata la narrazione del film? The Look of Silence è un'intervista, è un percorso di interviste che svolge il protagonista Adi Rukun, il quale, insomma, in seguito alla instaurazione della dittatura in Indonesia, decide di ripercorrere a ritroso quelle che erano le perpetrazioni svolte dalle forze militari del paese. Dunque Adi riesce a ripercorrere la catena di coloro che mesero in ginocchio il paese, le loro vessazioni, e in particolare che coinvolse anche interamente la sua famiglia, andando a intervistare i carnefici, appunto, del genocidio che venne compiuto in quegli anni in Indonesia. Dunque The Look of Silence è un film su una persona direttamente coinvolta nei fatti, diciamo così, che permette, appunto, di andare a scoprire quella che è una realtà politica e sociale sul quale era rimasto un completo oblio, una dimenticanza, un ricordo sugli anni di violenza, appunto, in questo paese, ma che tutto si fece per nascondere anche da parte della stessa popolazione indonesiana. Ecco, con questa opera, che, ripeto, segue la prima opera di Act of Killing, si viene a soverchiare questo timore, questa chiusura da parte del popolo indonesiano verso un orrore subito in prima pelle, e ora l'Indonesia ha certamente, può esprimere certamente con più forza un'idea che si protende verso un'idea di libertà, un'idea di racconto, un'idea di confronto più libero e politico. Questi film hanno scoverchiato interamente una situazione politica del paese, e sta tuttora, appunto, cambiando le cose. Senti Dario, in chiusura, per saperne di più sulla fruibilità in web, basta andare sul sito di I Wonder Pictures, il sito internet di I Wonder Pictures. Sicuramente il Facebook è sempre molto più aggiornato in tempo reale, per cui consiglio a tutti di visitare la pagina Facebook I Wonder Pictures, e mi ripeto, il film sarà disponibile in streaming digitale sulla piattaforma di My Movies e Nuovo Cinema Repubblica l'8 di febbraio, e a partire da circa il 20 di febbraio su tutte le altre piattaforme principali, ovvero iTunes, Google Play, Sony e via dicendo. Ti ringrazio, un abbraccio e a presto. Grazie a voi. Ciao Dario. A presto. Siamo in collegamento con Roberto Chiesi della Cineteca di Bologna per parlare del restauro dei film espressionisti Il gabinetto del dottor Caligari e Nosferatu il vampiro, in uscita in sala l'8 febbraio prossimo, cioè lunedì. Roberto, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, ciao, ciao, ciao. Allora, un'uscita importante, una doppia uscita, raccontaci un po' di questa operazione. Sì, come in altri casi, anche ora la Cineteca di Bologna, nell'ambito del progetto del cinema ritrovato al cinema, vuole rendere nuovamente visibili nelle condizioni migliori, quindi in copie restaurate, che hanno vinto anche premi, riconoscimenti, eccetera, i classici del passato, i grandi film che magari sono conosciuti in versioni manomesse in versione, oppure in versione televisiva, ecco, invece vederli come si deve, quindi in una sala nelle condizioni in cui furono volute dai loro autori. Ecco, questo è l'ambito in cui vengono presentati Nosferatu di Murnau e Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wien. Roberto, per chi ci ascolta, soprattutto per i più giovani, ce li puoi illustrare brevemente questi due capolavori? Beh, sono due capolavori simbolo dell'espressionismo tedesco. Ecco, Il gabinetto del dottor Caligari è proprio il simbolo, un film emblematico di questa grande stagione del cinema tedesco, quindi legata molto anche alle arti figurative del tempo. Il periodo era quello della Repubblica di Weimar, quindi erano gli anni precedenti l'avvento del nazismo, ed era un periodo di grandi tensioni sociali e di grandi inquietudini che poi sarebbero diventati come spettri che annunciavano gli orrori a venire. Di spettri e di orrori a venire è pieno e denso proprio Il gabinetto del dottor Caligari, che è una sorta di incubo, di grande incubo, di grande racconto fantasmatico, che ha di straordinario, ecco, l'uso proprio delle scenografie, dei segni. Fra l'altro questa versione è virata proprio in, quindi ha presente anche una colorazione che è quella che era all'epoca, che era propria della versione del tempo, quindi degli anni 10, ecco, quindi sì, si potrà vedere proprio il film nella forma in cui era stato concepito all'epoca. È un film, Il gabinetto del dottor Caligari, così è diventato anche, così, in un certo senso il prototipo di tanto cinema dell'orrore, ha ispirato tanto cinema dell'orrore a venire, perché c'è una sorta di dottore folle che guida un uomo in stato di sonnambulismo che diventa il suo esecutore di crimini. Quindi questo è un tipo di situazione che poi il cinema dell'orrore ha ripreso, ma che qui invece ha veramente una dimensione spettrale allucinata che è molto affascinante. Nosferatu senz'altro è più noto per i giovani. Nosferatu, una sinfonia dell'orrore, è il capolavoro che Murnau addirittura trasse dal Dracula, dal romanzo Dracula di Bram Stoker, e però senza citare la fonte, perché volevano evitare di pagare i diritti d'autore. Ed è tra tante cose che si possono dire su questa versione, è molto originale comunque del mito di Dracula, che ha rappresentato in una forma particolarmente spaventosa e anche repellente, con il cranio calvo e un volto che ricorda quello di una sorta di rettile o di pipistrello. Ecco, è interessante il fatto che, appunto, a differenza degli altri film espressionisti, dove c'era un uso delle scenografie, dell'artificio, quindi dove la dimensione artistica figurativa era molto forte, qui invece Murnau ha girato in buona parte in ambienti reali, ha girato veramente in Germania, a Lubecca, e quindi c'è comunque questa fusione fra reale e fantastico, perché poi invece è intervenuto sulle immagini, per cui ha usato il negativo, ha rallentato anche il ritmo delle immagini, proprio per imprimere al film una dimensione allucinata, anche in questo caso da incubo. Per quanto riguarda le operazioni di restauro, qualcosa di comprensibile per chi ci ascolta, ce la puoi raccontare? Ma sì, sono state operazioni abbastanza complesse, e adesso in due parole, del restauro di Nosferatu posso dire che si è basato proprio anche su una copia del 22, quindi okay, dell'epoca a cui risale il film. Poi si sono trovate però delle inquadrature mancanti in una copia che esisteva successiva del 39, e quindi si è fatta proprio quell'operazione di collazione, come si fa anche in filologia letteraria, reintegrando quelle che erano inquadrature mancanti. Poi si è trovata anche un'ulteriore copia degli anni 30, quindi insomma, come sempre il metodo consiste nel riunire tutte quelle che sono le copie migliori e identificare se ci sono delle lacune e quindi emendarle. Ecco, questo è un po' questo per quanto riguarda Nosferatu, il cui restauro poi è stato seguito anche da un grande studioso dell'opera di Murnau, lo spagnolo, Luciano Beriatua. E per conto poi della fondazione Murnau tedesca, il gabinetto del dottor Caligari era forse il film di cui si conoscevano le copie proprio più rovinate, più graffiate, i volti erano saturi, spesso ridotti proprio a delle macchie bianche, quindi si è basato il lavoro su tre restauri precedenti e però in questo caso si è potuto lavorare proprio su una ridefinizione del nitore delle immagini, per cui veramente il film è stato restituito anche nel tessuto figurativo, nella definizione dei lineamenti, dei dettagli allo splendore che aveva. Bene. Roberto, allora lunedì in sala in quante copie usciranno? In quali, cioè, insomma, quanti schermi avranno a disposizione queste due opere? Ma dunque dovrebbero uscire in più o meno in quasi tutte le sale d'essai italiane, quelle che sono collegate a questo particolare circuito. Bene. Credo adesso non, esattamente i numeri non li conosco, però avranno entrambi una diffusione che poi in realtà è scaglionata di una settimana, cioè prima uscirà in realtà Nosferatu e poi uscirà il gabinetto del dottor Caligari. Okay. Fra l'altro ecco, va anche aggiunto che mentre Nosferatu è l'opera veramente di un maestro del cinema, no? Murnau, uno dei più grandi autori cinematografici di sempre, ecco, il gabinetto del dottor Caligari bisogna dire che è un'opera veramente collettiva, cioè un'opera dove l'apporto degli scenografi è forse addirittura più importante di quello di Wien, del regista. Citiamoli almeno, erano Hermann Warm, Walter Reimann e Walter Röhrig, e poi gli sceneggiatori, anche Karl Mayer e Hans Janowitz. Ecco, è uno di quei casi in cui veramente il film è il risultato di un apporto di artisti diversi, ecco, non si concentra tutto solo sul lavoro del regista. Il regista. Tra l'altro al gabinetto del dottor Caligari abbiamo dedicato ad un disegno di una foto di scena alla copertina della trasmissione di questa settimana. Io ti ringrazio, Roberto, a risentirci presto. Grazie a voi, a presto, arrivederci. Roberto Chiesi della Cineteca di Bologna sul restauro del film Il gabinetto del dottor Caligari e Nosferatu il vampiro, in uscita in sala lunedì 8 febbraio prossimo. Dopo qualche mese ritroviamo Massimo Vattani, curatore della rassegna Wonder Quirinetta, il cinema al centro, dal 7 al 10 febbraio. Massimo, ben ritrovato. Ben trovato a te Federico, grazie per la chiamata. Anche se mi sono, diciamo, vedevo in ritardo e non sapevo se fosse saltato qualche programma del palinsesto, perché sono praticamente ritrovato in mezzo a questo sgombero a San Paolo. Sì, sì, invece, sì. Eccomi qua. Eccoci. Senti, allora, sì. Questo nuovo progetto che ti vede coinvolto, di cosa si tratta? Il Quirinetta, Massimo? Diciamo è un mio progetto di continuare ovviamente nella programmazione del contest e il documentario in sala, in questo caso nelle varie sale che hanno una loro evidente e appassionata disponibilità, e si sposa, diciamo, con il riscoprire questa antica passione cinematografica del cinema Quirinetta. Insieme alla collaborazione con la Wanted Distribuzione abbiamo messo in piedi questa rassegna, che ha avuto il suo anticipo il 25 gennaio con l'anteprima a Roma di Marlene Kunze, Complimenti per la festa. Trattavasi proprio di un'anticipazione e l'appuntamento era domenica 7 febbraio, da domenica 10 febbraio, appunto oramai a 3 giorni di distanza della rassegna, facciamo questa piccola comunicazione radiofonica insieme a te. Si tratta, come ti ho spiegato, di una rassegna dedicata appunto alle produzioni di Wanted, e quindi i 9 film che proponiamo all'interno di questa rassegna sono tutti all'interno del borsino della Wanted Distribuzione, che devo dire negli ultimi due anni si è messa assolutamente in evidenza per questa disponibilità a proporre titoli, diciamo, senza, diciamo, quegli atteggiamenti un po' scontati di delle varie distribuzioni che spesso sono interessate soltanto alle premiere, ma che mettono appunto a disposizione la loro brochure, il loro catalogo di film e documentari italiani, ma molto ovviamente internazionali, appunto che saranno il cuore pulsante, la base, la struttura di questa rassegna. Sono alcuni film, devo dire pochi, già visti in città e che hanno appunto per diversi motivi attirato l'attenzione degli appassionati, e però, diciamo, per dare, come dire, un senso originale, quindi premiare anche questo sforzo del Quirinetta di mettere a disposizione questa sala, diciamo, molte sono anteprime romane, se non erro, se non sbaglio, c'è anche una anteprima nazionale che mi sembra ci sarà mercoledì, l'ultimo giorno della rassegna. Questo un po' in temi generali, la proposta. Allora ti chiedo, Massimo, quanti sono i titoli proposti? E poi mi sembra che sia un programma più articolato, non ci sono solo proiezioni ma anche musica e incontri, da quello che leggo. Sì, diciamo i titoli sono 9. Uno è andato il 25 gennaio, Parlare Kunst, e si comincia domenica con due titoli che conosci molto bene e che hanno appunto segnato le programmazioni negli ultimi 6 mesi. Sono Wolfpack di Crystal Moselle, che ci ripropone oramai questa conoscenza con i fratelli Angulo, che sono il tema portante di questo meraviglioso film, premio della giuria all'ultimo Sundance Festival, e anche il vincitore della sezione Alice in Città nella ultima edizione del Festival di Roma. Il primo degli eventi collaterali, appunto, che citavi, proprio perché per rendere un'immagine completa di quelle che sono le iniziative culturali del Quirinetta, è un concerto live di un gruppo indie pop dal Canada che si chiamano i Ropo Porose, e il motivo per cui loro sono esattamente al centro tra le due proiezioni è che il loro stile musicale, l'indie pop, serve da introduzione al film della serata, che è alle 22, che è Station to Station di Doug Aitken. Il film sarà introdotto anche da Cosimo Alemà, che è un regista. Lunedì forse la giornata che propone, diciamo, il film che sta discutendo più attenzione sui vari social network ed oltre, con l'introduzione di Paolo Soriani alle 18:30, anticiperà appunto la proiezione delle 19, che è Alla ricerca di Vivian Maier. Credo che ti sia piaciuto, di John Malo, film del 2013, che ci ripropone questa data con la Rolleiflex Flex 6x6, questa scoperta di un genio della fotografia, scelta tra diciamo, la margherita di protagonisti di una persona assolutamente normale e che diventa a sua insaputa una delle fotografie più importanti al mondo. L'anteprima di cui ti parlavo precedentemente è alle ore 22. La nuova fatica, come si dice, un nuovo lavoro, forse piacere cinematografico, di Rodney Asher, che è il regista di Room 357, che ti ricorderai in qualche maniera riproponeva in una forma di backstage quelli che erano alcuni temi nascosti o poco individuati su Shining. Il film di adesso è un dog horror, i motivi che animano questa proiezione e questo film sono da ricercare nelle paure personali di tutti noi, e in particolare delle persone che hanno problemi di sonno e non riescono a dormire durante le ore notturne. È un'anteprima italiana, è un film molto atteso, anche perché l'esperienza precedente di Rodney Asher ha sicuramente convinto molti cinefili a seguire la sua attività. E ovviamente passiamo a martedì 9 febbraio, che è una degli appuntamenti musicali più qualificati. L'introduzione alle 18:30 sarà di Alberto Castelli, giornalista musicale che tutti voi conoscete. Alle 19 sarà Muscle Shoals di Greg Cavalier, un film ancora del 2013 di 111 minuti che ci propone questo posto magico in Alabama, sulle rive di un fiume all'interno di un bosco, e che in realtà è una delle case di registrazione che ha ospitato i più grandi artisti mondiali della musica. A seguire, sempre in questa forma collaborativa fra un film e l'altro, uno storytelling show a cura di Alberto Castelli, con una selezione musicale curata da Bob Corsi, Deep Soul Maestro. L'altra anteprima nazionale che ci sarà martedì 9 febbraio è Visitors di Goffredo Reggio, il regista forse più amato e più odiato allo stesso momento. Basta citare i suoi titoli precedenti o il più famoso titolo, Con gli anni scarsi, e in questo caso esce con questo film nel 2014, che si riferisce appunto al rapporto tra tecnologia e umanità, una chicca veramente da non perdere, un film ovviamente con le lentezze tipiche di Goffredo Reggio, molto, sai bene che la sua epicità appunto si riproduce anche all'interno di questo film. La rassegna si chiude mercoledì 10 febbraio con uno degli artisti rap più famosi al mondo, Nas. Il film sarà proiettato alle 18:30 nella sala del Quirinetta, e alle 22 chiudiamo con questa di nuovo anteprima, che è un film di Ilinka Calugheranu, che è un film molto atteso, un documentario, è Chuck Norris verso il comunismo, un film del 2015 di 81 minuti e che ripropone una storia tra le tante in Romania dei vari soggetti che hanno avuto un grande merito nella caduta di Ceausescu. Questo è un po' tutto. Massimo, ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più sulla programmazione? Sì, assolutamente sì, diciamo ci si può rivolgere al sito www.quirinetta.com, e se tu permetti volevo approfittare di questo spazio per rubarti gli ultimi 20 secondi. È partita questa mattina a nome del progetto Art House una petizione per raccolta firme per la riapertura del cinema Aquila. Si tratta di un progetto che prevede appunto la nostra richiesta, al pari di quello che è stato concesso alla Fondazione Cinema per Roma, di riaprire il cinema per una settimana o 10 giorni, dal 7 al 13 marzo. È un'iniziativa importante per lottare contro la logica della chiusura totale degli spazi culturali in questa città, che non riguarda soltanto il cinema, va ricordato, e che in qualche maniera vi pregherei di sottoscrivere. Ho inviato a te i link che sono utili per filmarli, e se in qualche maniera volessi aderire promuovendo questa nostra iniziativa, faresti veramente cosa giusta e gradita. Massimo, un abbraccio e a presto. Federico, grazie tanto, un abbraccio a te. Ciao. Massimo Vattani, curatore della rassegna Wanted Cinema, il cinema al centro dal 7 al 10 febbraio. Eccoci un po' in affanno, Maurizio Di Rienzo, curatore della rassegna alla Casa del Cinema qui a Roma, Italia Doc, per parlarci dei prossimi due appuntamenti. Maurizio, eccoci qui. Volentieri, anche perché oggi c'è il primo in effetti degli appuntamenti di questi cinque, che non erano ancora stati pubblicizzati perché dipendevano un po' da alcune scelte e decisioni in sinergia col sindacato giornalisti cinematografici, in sinergia con i Nastri d'Argento, che in qualche modo si stanno delineando per il documentario italiano dell'anno precedente, l'anno scorso, e che si festeggeranno premi e segnalazioni tra una ventina di giorni, sempre alla Casa del Cinema. Però nel frattempo, senza svelare clamorose vittorie o sconfitte, abbiamo, nell'ambito di una preselezione che è stata resa pubblica 48 ore fa, appunto abbiamo questi due film. Uno è questo Louisiana The Other Side, che è il film che completa in qualche modo una trilogia che Roberto Minervini, che abbiamo avuto ospite proprio per questo documentario un po' di tempo fa, quindi lo conoscete benissimo, vive, anzi adesso è in volo da un festival e non potrà partecipare alla chiacchierata neanche via Skype oggi pomeriggio, ma è in volo dal festival svedese di Göteborg fino a casa praticamente, perché vive in America ormai, dopo varie avventure di vita eccetera, ha scoperto la capacità di inquadrare le storie e di lavorare all'interno di comunità e situazioni che si fidano di lui e che evidentemente non recitano affatto quando raccontano la propria storia o la rielaborano drammaturgicamente, come è successo in Stop the Pounding Heart. E invece in questo caso siamo in un'America molto problematica, forse indicativa di quello che anche le prime i primi sondaggi, o anzi addirittura i famosi caucus delle elezioni americane stanno rivelando: un'America che è contro in qualche modo il sistema, ribelle, è composta da gente molto diversa fra loro, c'è chi ha le armi veramente sotto al cuscino, chi invece rivendica come dire un'ideologia legata alla natura e altre cose, altre persone che sono completamente isolate comunque dal contesto della community, della municipality, potremmo dire, sono due termini comunque giustamente americani. E quindi The Other Side della Louisiana, che già evoca la Louisiana con le paludi, i fiumi e New Orleans, insomma evoca delle cose un po' misteriose, ecco che viene indagata con molta attenzione nella sua umanità sicuramente non classificata e non molto visibile se non in questo modo, e questa è Louisiana oggi. E poi martedì 9 febbraio sempre alle 6 di un'altra trilogia di Barbara Cupisti, un'ex attrice che ormai si dedica al documentario, soprattutto va in zone come l'Oriente, l'Estremo Oriente, oppure anzi scusami il Medio Oriente e altre, in cui i problemi sono evidenti e i contrasti sono evidenti, ma anche barlumi di umanità sparsa. In questo caso nella trilogia esuli vedremo esuli le guerre e quindi il tema dei profughi, della migrazione, dei confronti, dei contrasti, insomma di come accogliere e di come regolamentare eccetera eccetera. E quindi credo che sono due documentari di italiani che lavorano all'estero, entrambi, anche lei vive spesso in America ma ormai Minervini è lì, quindi uno dietro l'altro, e fanno parte di una preselezione dei Nastri d'Argento, e sono documentari che sicuramente guardando oltre l'Italia allargano anche l'orizzonte delle storie che in effetti noi tendiamo a tenere un po' più sull'Italia quando c'è questa rassegna Italia Doc, ma in questo caso, a parte il livello dei due documentari e anche l'importanza dei due registi e dei temi. Allora ricordiamo Italia Doc, la rassegna curata da Maurizio Di Rienzo alla Casa del Cinema. Sì. Tutti i riferimenti si trovano sul sito internet della Casa del Cinema. Maurizio, ci sentiamo nelle prossime settimane per ulteriori aggiornamenti. Sì, va bene, come se fossi in un posto dove c'è la neve, devo dire come vanno le cose. No, grazie, volentierissimo, perché ci saranno i Nastri d'Argento il 25 e prima potremo sentirci quando vorrete. In ogni caso, Casa del Cinema martedì e giovedì, quasi tutti martedì e giovedì, con repliche sabato e domenica, ma alle 16, ma il martedì e giovedì alle 18 fino a inizio aprile ha un bel po' di documentari, e quindi grazie molte a voi che ci date la possibilità di parlarne e quindi insomma buon cinema a tutti. A presto, un abbraccio, ciao Maurizio. Grazie, ciao. Maurizio Di Rienzo, curatore di Italia Doc, sui prossimi appuntamenti. Eccoci con Antonio Medici della BIM per parlare della distribuzione del film Remember, in uscita in sala oggi, giovedì 4 febbraio. Antonio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti e grazie di avermi invitato. Un film molto interessante, Atom Egoyan. Per chi ci ascolta, di cosa si parla, Antonio? E dunque, si parla di tante cose, si parla del nazismo, si parla della memoria, si parla della rimozione, si parla insomma di come si evolve la vita. È un film che quando abbiamo letto ci ha colpito, perché è un film che ha un finale così sconvolgente, che naturalmente non racconto e che invito tutti ad andare a scoprire il cinema. È la storia di un uomo, se volete un po' più curioso, è la storia di un uomo che con una lettera va alla ricerca di una persona che ha sterminato la sua famiglia durante l'Olocausto, detto molto così, brevemente. In maniera piuttosto simbolica, mi sembra dire che la rimozione, voler dire a Tom Egoyan che la rimozione della memoria poi permette quasi un ribaltamento dei ruoli, se vogliamo vederla in un'ottica appunto molto simbolica e molto interessante. Ma questo sicuramente, insomma, il film si presta, come spesso i buoni film, come il Reverend Remember, a diversi livelli di lettura. Il livello di lettura simbolico è sicuramente questo. Adesso non vorrei spingere certo, troppo, non diciamo troppo, per non, per non svelare questo certo. Finale così, così forte, però certo che si può leggere, insomma, la rimozione così può cambiare molte vite. Senti, la BIM, il suo rapporto con Atom Egoyan, già altri lavori avevate portato qui in Italia? Sì, noi in passato abbiamo già distribuito due film di Atom, avevamo distribuito un bellissimo film che si chiama Il viaggio di Felicia, che era un film già un più intimista nella filmografia di Atom, e poi avevamo distribuito un altro film sicuramente meno riuscito che si chiamava Ararat, che era un film sugli armeni, sul genocidio armeno. Un regista che comunque ha così a volte ha avuto in passato dei risultati così discontinui, però sicuramente un regista che sa raccontare bene certe storie, e credo che la storia di Remember lui la racconti veramente bene. E, insomma, noi che abbiamo una politica di seguire i registi con cui lavoriamo, ogni volta che si affaccia sul mercato un progetto di un regista che abbiamo distribuito, siamo sempre interessati. Antonio, che tipo di riscontri ha avuto all'estero? Scusate che sento male, che tipo di riscontri? Ha avuto il film all'estero, già nei luoghi in cui è uscito? Dunque, ma il film non è ancora uscito in moltissimi territori, non è ancora uscito nei territori più importanti. Più importanti. È uscito in Canada, che insomma la nazionalità di Atom e dei produttori, dove ha avuto un buon riscontro. Soprattutto ha avuto un buon riscontro qui da noi già al Festival di Venezia, dove il film insomma è molto piaciuto, molto emozionato il pubblico, ha avuto un bel riscontro da parte dei giornali, insomma, non solo dei critici puri, ma anche da parte di quei giornalisti che comunque hanno dato una lettura anche più ampia appunto del film, andando appunto a vedere il discorso sulla memoria, sulla rimozione, insomma, temi che abbiamo già citato, e anche la rassegna stampa di oggi, insomma, siamo soddisfatti. In quante copie sarà nelle sale, Antonio? Guarda, il film esce in 85 schermi, che oramai le copie, tutti le chiamiamo ancora copie, sì, esatto. Forse un po' nostalgicamente, perché la pellicola non esiste più, e comunque esce in 85 schermi, esce in tutto il territorio nazionale, e abbiamo insomma, tutte le sale migliori che fanno il cinema di qualità in Italia, e insomma, siamo fiduciosi per questo risultato. Penso che è un film che, insomma, che emoziona, e l'emozione secondo me funziona sempre al cinema. Sì. Antonio, io ti ringrazio, un in bocca al lupo, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a tutti, buon lavoro. Anche a te, ciao. Antonio Medici della BIM sulla distribuzione del film Remember, in uscita in sala oggi, giovedì 4 febbraio. In linea con noi Patrizia Masa, la curatrice della rassegna itinerante Italia, Terzo Millennio, Nuovo Cinema del Reale, dal 6 febbraio fino al 5 marzo in Sardegna, giusto Patrizia? Sì, Federico, in Sardegna. Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, una bella rassegna, intanto raccontaci un po' quanti saranno i titoli proposti e poi i vari luoghi che attraverseranno. Allora, i titoli proposti sono in totale 15. E si tratta di una rassegna itinerante che verrà svolta nel territorio sardo e coinvolge circa 5 città. 5 località diverse, quindi per un totale di 6 circoli del cinema aderenti alla Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, tanti altri partner, tra i quali appunto anche delle scuole, un liceo scientifico e un liceo artistico, delle riviste poetiche e letterarie, tanti media partner, Diari di Cinet Club in testa, Radio Sardegna Web, una casa editrice, La Città degli Dei. Bene. Nonché un appuntamento particolare per Buon Compleanno Faber, che si svolge in Sardegna da un po' di anni, nella cittadina di Monferrato. E 5 registi coinvolti: Alina Marazzi, Costanza Quatriglio, Claudio Giovannesi, Peter Marcias e Michelangelo Framartino. 3 film per ognuno, con un appuntamento particolare il 6 febbraio con la proiezione di Comizi d'amore di Pierpaolo Pasolini. Tra l'altro tutti gli autori che già sono stati nostri ospiti, e questo ci fa piacere. Patrizia, quali sono stati i criteri di selezione, di scelta di questi titoli? Ma sono autori che noi seguiamo da diverso tempo nei festival, per cui abbiamo fatto una selezione ragionata su questi 5. Ne volevamo uno sardo, quindi abbiamo scelto Peter Marcias, che di reale si occupa nella sua filmografia, per poi attraverso appunto questi altri 4 autori il territorio italiano dal nord fino al sud. Sì. Senti, per saperne di più, il programma è online in qualche... Il programma è online, sì. Si può trovare sia su Facebook nel nostro gruppo Associazione Culturale L'Alambicco, La Macchina Cinema, 2 associazioni che collaborano ormai da 20 anni, e poi sul nostro sito internet, e poi e soprattutto sul sito ufficiale della Federazione Italiana dei Circoli del Cinema. Oh, non è la prima volta, anzi spesso avviene che rispetto alla Sardegna ci occupiamo del cinema che si fruisce lì, e questo dà il segno di una attenzione e anche di tante forze che si prodigano per la cultura nell'isola, giusto? Beh, intanto questa rassegna non sarebbe stata possibile se non avessimo avuto il patrocinio della Regione Sardegna e poi appunto di tante altre forze che collaborano, associazioni, appunto circoli, come ho detto, circoli ricreativi, e addirittura abbiamo coinvolto una comunità terapeutica per giovani detenuti. Ah, bene. Quindi un po' di forze tutte insieme. Mm-hmm. La particolarità della rassegna è che comunque si rivolge anche a un pubblico che spesso viene trascurato, e cioè ai non udenti, quindi proietteremo tutti i film con i sottotitoli, e nonché avremo la presenza di un operatore LIS, di un professionista LIS, per tutti i dibattiti e per la tavola rotonda finale che appunto ci sarà il 5 di marzo, alla presenza di tutti i registi coinvolti. Bene, Patrizia, io ti ringrazio, un in bocca al lupo, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a te, ciao, buon lavoro, grazie. Ciao anche a te. Patrizia Masa, la curatrice della rassegna itinerante Italia, Terzo Millennio, Nuovo Cinema del Reale, dal 6 febbraio al 5 marzo. Ben ritrovato Filippo Vendemmiati, ci sei? Ci sono, grazie Federico, eccomi qua. Oggi ti sentiamo in qualità di ideatore del progetto Chuck in Carcere, mi sembra molto interessante, parlacene un po', Filippo. Sì, questa volta rispondo nelle vesti di irresponsabile direttore artistico di un festival, di un progetto improbabile, ecco, ma che parte per la prima volta in Italia e forse anche da altre parti, a mio modo di conoscere. Ecco, vi parlo innanzitutto di Cine Evasioni. Che cos'è? Il primo festival del cinema non sul carcere ma in carcere, nel senso che è un festival del cinema che si terrà all'interno del carcere della Dotta di Bologna dal 9 al 14 di maggio. C'è un sito che è www.cinevasioni.it e lì, se volete saperne di più, potete vedere il regolamento e potete scaricare il form di iscrizione. Le iscrizioni sono aperte fino alla fine di marzo. Cinevasioni è la logica conclusione di un'attività che, come associazione documentaristi Emilia Romagna, stiamo facendo all'interno del carcere della Dotta. All'interno di questa struttura, dall'inizio di ottobre, abbiamo avviato un corso laboratorio teorico e pratico di cinema, una volta alla settimana, tutti i martedì, 2 ore, rivolto ad una quindicina di detenuti. Con loro parliamo di cinema, facciamo dimostrazioni anche pratiche, guardiamo film, recensiamo film, facciamo prove di montaggio. Proprio in questo periodo stiamo parlando di montaggio, e poi insieme a loro cominceremo a ideare un piccolo video che vorrà essere in qualche modo anche la sigla del festival, un video che gireremo all'interno del carcere, che sarà così lo spot iniziale delle giornate del cinema all'interno del carcere della Dotta. Filippo, l'altra cosa, perché altrimenti vado avanti troppo, ecco, l'altra cosa, l'altra particolarità, diciamo, di questo festival, che possono iscriversi indifferentemente sia film di fiction che documentari, iscrizione aperta, film usciti nel 2015, quindi non inediti ovviamente, perché per il carcere sono tutti inediti i film, questo è il punto, e quindi film usciti nel 2015. E l'altra particolarità è che la giuria del festival sarà composta dal gruppo di persone che hanno partecipato al corso, e sarà diretta, ci sarà una nomina di un presidente della giuria, di un personaggio esterno che noi vogliamo indicare appartenente al mondo del cinema, e che quindi dovrà in qualche modo mettersi in gioco e confrontarsi con il gruppo interno della giuria, diciamo, chiamiamoli interni. Filippo, immagino che la spinta verso questa attività in carcere venga proprio da te, che a questo universo carcerario hai dedicato tanta attenzione documentaria. In realtà, diciamo, la sollecitazione è venuta proprio da quell'esperienza. Io ho girato, meno male, lunedì un film dedicato ad un'esperienza di lavoro positiva, per una volta, un po' unica e positiva, all'interno del carcere della Dotta. Quindi sono stato 3 mesi all'interno del carcere della Dotta di Bologna. Ecco, il bello di molti documentari è che in qualche modo continuano anche dopo i titoli di coda, e non c'è una fine. Ecco, meno male lunedì in qualche modo è continuato dopo i titoli di coda, perché quando abbiamo proiettato il film all'interno del carcere della Dotta, c'è stato un detenuto a nome di altri che ci ha detto: ma perché queste proiezioni non le facciamo più spesso? Perché non ci insegnate un po' a leggere i film? Perché non parliamo un po' di cinema all'interno del carcere? E io l'ho sentita un po' come una responsabilità anche individuale oltre che collettiva, e quindi ho subito chiesto alla direttrice del carcere, Claudia Clementi, se c'erano gli spazi per una cosa di questo genere. Dopodiché è nata questa idea pazza del festival in carcere. La direttrice del carcere è anche un'appassionata di cinema, e quindi ci siamo lanciati in questa avventura che ancora non sappiamo in realtà dove ci porterà, ecco, ma la macchina ormai è avviata ed è un po' una doppia sfida, ecco, sia nei confronti dell'istituzione carceraria ma sia anche nei confronti del mondo del cinema. Ecco, in questo senso mi sembra che l'istituzione sia stata disponibile. Immagino anche ci sia stata anche molta curiosità da parte dei detenuti. C'è molta curiosità da parte dei detenuti che fanno parte del nostro corso. e quindi ci hanno chiesto espressamente nelle prossime elezioni di incontrare anche critici cinematografici, perché si sentono molto coinvolti, ecco, nella parte giudicante della giuria, insomma, no? Di chi deve valutare questi film. Sono persone che hanno una competenza cinematografica e una passione che devo dire sono molto superiori a quanto io mi aspettassi, e con loro stiamo un po' condividendo tutto, per cui loro non erano presenti alla conferenza stampa di presentazione la settimana scorsa, ma gli abbiamo fatto una sintesi e gliel'abbiamo fatta vedere, gli abbiamo portato la rassegna stampa, con loro abbiamo scelto e indicato il logo del festival, che rappresenta un po' una pellicola che a mo' di lenzuolo scappa e evade dalle sbarre, dalla cella. Con loro abbiamo scelto il titolo e con loro probabilmente selezioneremo anche i film che si iscriveranno, quindi è un percorso comune, e so che all'interno del carcere c'è molta richiesta, purtroppo però noi questo corso lo facciamo solo una volta alla settimana in un angolino, in una celletta un po' più grande adibita ad anfiteatro, ed è oggettivamente già piena con 15-20 persone dentro, speriamo di poter continuare questa esperienza anche il prossimo anno. Ecco, mi interessa molto il quanto entra dentro e quanto esce fuori, e volevo chiederti, ecco, rispetto al festival e anche alla richiesta rispetto ai critici cinematografici, se ci saranno ospiti che varcheranno quella soglia del carcere per entrare all'interno e comunicare con i detenuti, e poi quanto riuscirà a uscire fuori da questo festival. Dicevi che il risultato sarà poi sintetizzato in un lavoro filmato ad opera dei detenuti, ma ci saranno anche altri momenti per fare uscire questa esperienza all'esterno? Allora, è scritto espressamente nel bando. Noi chiediamo ad ogni responsabile delle opere selezionate di indicare una persona, che può essere il regista, un attore, il direttore della fotografia, il musicista, il produttore, che sia disponibile a presentare il proprio film all'interno del carcere. Ecco, se questa persona non c'è, il film non viene accettato. Ah, okay. E quindi questa, diciamo, è la prima regola. Quindi ci sarà al termine di ogni proiezione l'incontro con la giuria e con le persone, i detenuti che assisteranno alla proiezione. Ad ogni proiezione la sala è piuttosto grande, ospita, in grado di ospitare circa 150 persone. In questo festival ha un fuori e un dentro, perché questo è uno degli obiettivi, per cui a rotazione ad ogni proiezione assisteranno un centinaio di detenuti, mentre gli altri posti sono riservati su invito a esperti del cinema, studenti delle scuole superiori, studenti del DAMS di Bologna. Quindi ci sarà anche un pubblico, ovviamente non potrà entrare liberamente, ma stiamo già immaginando come poter fare. Sì. Comunque ci sarà esternamente alla struttura carceraria, ma all'interno sempre del carcere, diciamo non nell'area detentiva, una sorta di saletta stampa dove sarà possibile a tutti, diciamo l'unico limite è la capienza della sala, tutti assistere in videoproiezione agli incontri che si terranno all'interno del carcere. Sì. Quindi stiamo cercando appunto in qualche modo di attraverso il cinema di aprire anche alla città e anche al cinema la struttura carceraria, per mettere in relazione attraverso il cinema le persone e i detenuti. Mm-hmm. E l'altra cosa che ci sembra importante è che c'è un presidente della giuria che è un personaggio esterno, e in qualche modo noi abbiamo già contatti e stiamo cercando di capire chi può essere un presidente della giuria, però c'è un bando di concorso non ufficiale. Ecco, noi accettiamo autocandidature, se ci sono personaggi che appartengono al mondo del cinema e che intendono per 2-3 giorni venire a Bologna, confrontarsi con i detenuti e metterci anche il nome, noi accettiamo le autocandidature, e le autocandidature, diciamo, hanno la preferenza rispetto alle indicazioni che noi faremo e che stiamo valutando. Quindi vogliamo capire se il mondo del cinema, che si dice sempre anche giustamente un linguaggio universale capace di attraversare tutti i muri, i muri di razza, di religione, di città, e riesce anche a penetrare quello che forse il muro sociale più spesso, quello che divide gli uomini liberi dai cosiddetti ristretti. Mm-hmm. Filippo, a questo punto ci dai tutti i riferimenti web, certo, per saperne di più? Allora, prendete nota, il sito è www.cinevasioni.it e la mail è segreteria@cinevasioni.it. Nel sito trovate il regolamento e il bando di concorso, c'è la pagina Facebook www.facebook.com/cinevasioni. Io sono il direttore artistico, Angelita Fiore, altra collega regista, è la direttrice scientifica, il carcere, il festival è in collaborazione con la casa circondariale della Dorsa di Bologna, è un progetto della DER Emilia Romagna con il contributo della Fondazione del Monte di Ravenna e Bologna. Credo di avere detto quasi tutto. Ci sentiremo anche a ridosso chiaramente del festival. Filippo, certo, faremo una conferenza stampa di presentazione del programma, credo all'inizio di maggio, e pensiamo di farla nel suo luogo naturale, che è la Casa del Cinema di Roma. Benissimo, allora ci sentiamo più in là, un abbraccio e in bocca al lupo, Filippo. Grazie a voi, Federico. A presto. Ciao a tutti. Ciao. Filippo Vendemmiati, ideatore del progetto Chuck in carcere. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Juliane Biasi Händel, regista del film Per ciechi, Il colore dell'erba, in uscita in tour a febbraio, quindi in questi giorni. Juliane, ben ritrovata. Ciao. Perché noi, come mi ricordavi, ci eravamo già sentiti proprio su questo film quando non era ancora, era presente ad un festival, non era ancora in uscita. Sì, in realtà era uscito in televisione. Ok, era uscita la versione televisiva. E adesso abbiamo completato la versione, diciamo, cinematografica, e è un'altra cosa, insomma. Oh, io l'ho definito film per ciechi perché, parlando del tema della cecità, qualche settimana fa con un regista che ne ha fatto un documentario, loro rifiutano questa etichetta non vedenti, perché sì, è vero. Per cui ci sono tantissimi che non apprezzano, insomma, sì, perché il non praticamente, esatto, dà proprio l'idea di una mancanza, insomma, esatto, no? Per cui preferiscono chiamarsi ciechi, semplicemente. Allora, non tutti la pensano allo stesso modo, però insomma diciamo che tendenzialmente è così, ecco. Sì, sì, sì. Allora, Juliane, Il colore dell'erba è un film pensato proprio per i ciechi, raccontaci un po' di questa avventura. Sì, in pratica tutto è successo perché fin dall'inizio io volevo creare qualcosa, un prodotto, diciamo, che potesse andare bene al cinema sia per i vedenti che per i ciechi. La sfida era quella di portarli tutti al cinema, insomma, no? Quindi era un po' questo. Generalmente i film sono pensati per i vedenti e quindi vengono finiti e poi in un secondo momento vengono dati a uno studio dove viene fatta l'audiodescrizione. Noi volevamo invece fare una cosa diversa, insomma, cercare di fare un esperimento e mettere insieme l'elemento, diciamo, forte dell'audio con il video e cercare di creare un prodotto, insomma, che potesse essere fruibile insieme, seduti uno accanto all'altro in una bella sala cinematografica, e sperimentare, insomma, questa nuova esperienza. Allora, cui, un sì, grande lavoro sul suono, sì, esatto, mi dicevate, esatto. Raccontaci un po' di cosa, sì, si è trattato. Infatti, abbiamo collaborato con Mirko Mencazzi, che è sound designer, appunto uno dei più bravi, insomma, che ci sono qua in Italia, e lui è non vedente, appunto è cieco, e quindi insieme abbiamo cercato di costruire proprio il paesaggio sonoro, di renderlo così forte, così percepibile, in modo da che chi vuole fare questo tipo di esperienza si cala dentro, diciamo, in questo film. Quindi è come stare all'interno e percepire tutti i rumori e tutte le situazioni dove la storia, diciamo, si svolge. Sì. Che è la storia di Giorgia e Giona, sostanzialmente, no? Che sono due ragazzine adolescenti che vogliono uscire fuori nel mondo e compiono i primi passi. E ci tengo a precisare che l'idea è stata proprio di Giorgia, perché lei mi diceva: io vorrei convincere Giona, la mia amica, a fare una cosa che facciamo da sole. E per cui questo tentativo, diciamo, di raggiungere la gelateria, che era il luogo dove lei aveva nel suo immaginario, insomma, si era creata, che era il mondo, sostanzialmente, no? Perché lì ci sono i ragazzi, c'è la musica e tutte queste cose, per cui l'idea era proprio quella di andarci da sole, quindi non accompagnate da qualcuno, e volevano mettersi alla prova, insomma, su questo serviva poi anche per la loro autonomia, per l'indipendenza, non so, un po' come tutti i ragazzini quando a un certo punto vogliono lasciare il nido di casa e cominciare a sperimentare l'esterno, no? Senti, ecco, questa era un po'... Sì. Juliane, in tour da febbraio, ecco, come si caratterizza questa uscita? Sì, guarda, allora, intanto, cioè, il film ovviamente è... L'idea è di portare, insomma, le persone al cinema, e quindi è sia un film che un audio documentario, è tutto un esperimento fatto insieme, insomma, anche con la musica di Niki La Rosa, che ha fatto la colonna sonora, quindi è tutta una cosa integrata. E adesso i cinema che ci hanno dato la possibilità, perché noi chiaramente siamo indipendenti, non abbiamo una grande distribuzione, erano adesso a Torino, che è finito, insomma, diciamo, abbiamo fatto 2 giorni, i prossimi sono a Trento, quindi l'8 e il 9 di febbraio, e poi andremo a Milano al Cinema Beltrade il 10 e l'11, e poi andremo il 16 e il 17 a Bologna al Cinema Galliera. Quindi questi sono i cinema che ci hanno, diciamo, ospitato fino adesso. E poi speriamo che ci sia qualche altro cinema, insomma, che voglia venirci incontro, insomma, darci una mano a sperimentare questa nuova opportunità, insomma, di poterci sedere tutti in poltrona e godere di questa cosa forse un po' folle, insomma, però è anche così, è una sperimentazione per stare insieme, insomma, per cercare di rompere anche un po' le barriere, no? Le differenze, e cercare di andare oltre, diciamo, a quello che è il nostro conosciuto normale. Sì, sì, e sperimentare, sì, un po' attraverso i sensi un altro mondo. Ecco, questa è un po' l'idea. Sì. Juliane, ci dai dei riferimenti internet per saperne di più e per mettersi in contatto? Sì, guarda, noi abbiamo la pagina Facebook Il Colore dell'Erba, e lì ci sono tutte le informazioni, o altrimenti anche al sito di Indica, che è la produzione, diciamo, di Torino, che mi supporta in questa avventura. Ecco, ci siamo, e se no chiamatemi direttamente, io sono anche disponibile, insomma, a parlare direttamente con tutti. Benissimo, allora un abbraccio e a risentirci presto, Juliane. Grazie grazie mille, un abbraccione a voi, grazie, ciao. Juliane Biasi Endel, regista del film Per ciechi, Il colore dell'erba, in uscita in tour a febbraio. Fabio Micolano, regista del documentario C'era una volta il prossimamente, finalmente, diciamo, Fabio. Sì, ciao Federico, buonasera agli ascoltatori. Ci siamo un po' inseguiti nelle settimane, però ce l'abbiamo fatta. Un documentario che è stato anche al Clorofilla Film Festival, lì ne sono venuto a conoscenza. Si parla di informazione cinematografica, in che senso, Fabio? Ripercorro la storia e l'evoluzione del trailer cinematografico, o prossimamente, come veniva chiamato, appunto, anni dietro, dal cinema muto ai giorni nostri, come si è evoluto sia nella forma che nella durata, attraverso tutte le sue varie fasi di sperimentazione. Devo dire che mi incuriosiva anche perché per me è uno strumento estremamente utile. Io quando vado alle anteprime stampa a vedere i film cerco sempre di sapere il minimo indispensabile di trama per non rovinarmi poi il piacere della visione. Però, esatto. Però in alcuni casi, prima poi scrivevo per alcune testate, quindi andavo a vedere di tutto di più. Adesso che mi occupo principalmente della mia trasmissione, vado a vedere quello che voglio e il trailer in questo senso difficilmente ti inganna, per cui capisci subito se quel film fa al tuo caso rispetto alla tua curiosità o meno, e devo dire che è uno strumento estremamente utile. Sì, assolutamente. Poi in questo senso, appunto, una delle parentesi che si aprono nel documentario è proprio qual è il limite giusto oltre il quale rimanere nel terreno di racconto, diciamo. Sì. Quanto svelare, quanto invece rimanere sul gioco della curiosità e di lasciare una fattura accattivante attraverso un montaggio avvincente. E quindi devo dire che il documentario nasce quando io conosco, tramite Stefano Di Fiore, un montatore del suono che saluto e ringrazio, uno splendido ottantenne che si chiama Miro Crisanti, figura magari sconosciuta al grande pubblico ma noto agli addetti ai lavori, perché fa proprio il trailerista di mestiere. Quindi quando quel giorno mi è stato presentato, l'ho conosciuto, lui mi ha presentato alcuni dei suoi prossimamente, da quello del Conformista, Quattro Mosche di Tutto Grigio, ed erano dei lavori veramente strabilianti, sia di appunto montaggio incisivo e avvincente che di effetti appunto in truca. All'epoca venivano realizzati, se era magari un film dell'orrore si inventava delle colate di sangue piuttosto che uno sparo di un saloon western per un film appunto spaghetti western. Quindi il trailer non era solo un montaggio di scene, ma veniva arricchito dell'inventiva di questi veri e propri artigiani come Miro Crisanti, appunto. Spesso è proprio un piccolo racconto, diciamo, il trailer. Sì, io ho conosciuto lui, inizialmente doveva essere concentrato sul suo lavoro, poi ho visto che attraverso il suo lavoro l'argomento era talmente vasto che poteva aprire tante altre finestre, che ho ripercorso, mantenendo la sua figura centrale nel documentario, un po' tutta la storia del prossimamente dalle origini del cinema fino ai giorni nostri, e lo faccio sia dal punto di vista culturale attraverso interventi di vari critici come Sid della Casa, Tatti Sanguinetti, Oscar Kosulic, Mario Sesti, tanti altri, che dal punto di vista proprio di chi interviene attivamente, che sono i registi, e lì vado da Giuseppe Tornatore, Paolo Vizzi, i fratelli Vanzina, il compianto Ettore Scola e tanti altri. Insomma, ci sono interventi molto gustosi per i cinefili. Tra l'altro al trailer è stato dedicato proprio un festival, c'è un festival dedicato al trailer. Fabio, volevo chiederti, nel corso del tempo, come si è modificato la struttura trailer e che funzione, anche per rispetto alla sua funzione, che funzioni ha rivestito nel corso del tempo? Ma guarda, allora, lo spartiacque principale, diciamo, è stato l'inizio degli anni 60. Okay. Diciamo che prima degli anni 60 i trailer, anzi prossimamente, come veniva chiamato allora, erano molto più lunghi di durata, potevano arrivare anche a 4-5 minuti, e avevano un approccio molto ridondante ed eccessivamente enfatico, perché facevano leva su pochi strumenti di conoscenza a disposizione dello spettatore, che erano solitamente gli attori e in qualche caso se il regista era molto famoso. Ovviamente poi con l'evoluzione e l'espansione anche proprio della cultura del pubblico si sono stati introdotti molti più strumenti di conoscenza e di informazione, e quindi il trailer è diventato innanzitutto più ridotto di tempo, perché sì, poi anche ovviamente i nuovi strumenti di comunicazione hanno velocizzato tutto, i videoclip, il web hanno influenzato anche proprio a livello linguistico, e poi anche nella forma appunto iniziano ad essere realizzati i primi trailer di montaggio, va via via scomparendo la voce off che era molto sì, enfatica appunto fino agli anni 60, e descriveva, ecco appunto, tornando al discorso di prima, forse anche troppo della trama del film. Sì. Senti, che percorso avrà adesso del documentario? Federico, questa purtroppo è una delle note dolenti, perché come tu immagino saprai, dovendo inserire molti trailer di film, e poi c'è tutto un discorso legato ai diritti delle scene di cui i trailer fanno pubblicità, e quindi poi lì si aprono due scuole di pensiero, nel senso che c'è chi dice che il trailer, essendo un prodotto a sé stante promozionale, dovrebbe essere esente dal discorso detenzione diritti dei film, e c'è chi invece che dice che no, fa parte comunque di un corredo pubblicitario che fa parte del film, e quindi in quanto tale appartiene a chi detiene i diritti di quel film. Quindi nel dubbio, purtroppo, poi siccome siamo in Italia dove nulla è certo e tutto è interpretabile, per ora ha fatto un percorso festivaliero e comunque di manifestazioni senza scopo di lucro, okay, tra cui appunto il Trailer Film Festival di Catania, il Clorofilla, il Busto Assizio Film Festival diretto da Steve Della Casa, insomma importanti e prestigiose manifestazioni. Per quanto riguarda una uscita eventuale nella sala o comunque una distribuzione o video o quant'altro, sarebbe da esaminare il documentario caso per caso, perché lì ci sono appunto i detentori dei diritti che eventualmente andrebbero contattati. Mm-mm. Ma la vedo difficile, purtroppo. Senti, però per saperne di più ci puoi lasciare tutti i dati web per seguirti. Sì, c'è la piattaforma Italian Doc, dove è appunto reperibile lì, e poi vedremo, insomma. Va bene. Allora, un in bocca al lupo, Fabio, è stato un piacere, ce l'abbiamo fatta, questa è la cosa più importante. Speriamo di sentirci presto per nuovi progetti. Assolutamente, ce ne sono altri tre in cantiere, ovviamente bello, con molta pazienza, perché dovendo fare tutto il lavoro da solo e dovendo anche lavorare, ci vuole tempo per questi progetti. Dai, allora, un abbraccio e a presto. Grazie Federico, saluti a tutti. Ciao. Ciao. Fabio Micolano, regista del documentario C'era una volta il prossimamente, con lui chiudiamo la puntata settimanale di Visionari, che torna giovedì prossimo dalle 14 alle 15. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming, perché sull'home page del sito internet della radio ondarossa.info c'è Ascolta la diretta. È tutto, buon proseguimento. Le informazioni le trovate sul sito La Voce Trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info.